Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay, omofobia e siti di incontri. Questo post intende sottolineare le conseguenze della mancata integrazione sociale dell'omosessualità e della diffusa omofobia ambientale sulle persone gay, in termini di perdita della dimensione affettiva della sessualità, di aumento della sua dimensione trasgressiva e di rischio AIDS. Di fronte ai numerosi suicidi di adolescenti gay che in tutto il mondo arrivano a fare notizie sui giornali e moltissimi tra l'altro restano volutamente nascosti per scelta delle famiglie, di fronte a quanti hanno perso la vita per ragioni di odio omofobico, di fronte alla frequente e marcata istigazione alla discriminazione e all'odio operata da ambienti religiosi, le persone che hanno un senso morale non possono rimanere indifferenti. Gli atteggiamenti omofobici e discriminatori ricevono ogni giorno incredibili legittimazioni. Fortunatamente in molti stati la civiltà del diritto costituisce un freno all'odio omofobico e una spinta all'integrazione degli omosessuali, ma è innegabile che ancora oggi, nel XXI secolo, anche nei paesi in cui l'omosessualità non è considerata un crimine e perfino in quelli in cui sono state estese ai gay le norme sul matrimonio e sull'adozione, sussiste tuttavia a livello sociale una forma di silente ma potente discriminazione che agisce sulle persone gay fin dall'adolescenza e le abitua all'emarginazione come se fosse il loro destino ineluttabile. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Quando un adolescente si rende conto che la sua affettività e la sua sessualità sono profondamente e spesso violentemente discriminate sia dalla famiglia che dall'ambiente sociale, le reazioni possono essere molteplici, dalla tendenza all'autorepressione o alla depressione, talvolta fino al suicidio, fino ad atteggiamenti di rivolta e di sfida aperta verso la famiglia e verso la società. In ogni caso, al di là delle reazioni esterne, si mette in moto un meccanismo di ricerca del confronto e di ricerca del dialogo, che non trova però alcuna risposta seria, né nella famiglia, né nelle istituzioni scolastiche, in quelle religiose, sociali o recreative. Ed è proprio a questo punto che intervengono altri strumenti, oggi disponibili, che hanno modificato le prospettive dei gay da una decina d'anni a questa parte. Parlo di internet e di quanto i ragazzi possono trovare su internet, non solo in termini di confronto, di dialogo, ma anche in termini di offerta sessuale facile, cioè di siti di incontri e di videochat. Esistono in rete siti estremamente seri di informazione e di confronto tra persone gay, ma va comunque detto che costituiscono una parte nettamente minoritaria dei servizi offerti via web e anche l'utenza è decisamente minoritaria. La grande maggioranza dei siti etichettati gay è costituita da pornografia, da siti di incontri e da videochat. Tutto ciò che per un ragazzo etero costituisce la normale vita affettiva e sessuale, che può essere vissuta sotto gli occhi di tutti, famiglia compresa, come innamorarsi, scambiare tenerezze con la persona amata, poter parlare apertamente dei propri sentimenti, per un ragazzo gay di fatto è impossibile o estremamente complicato. Un ragazzo gay trova gravi difficoltà nel dichiarare il proprio amore ad un altro ragazzo, non ne può parlare con gli amici o con la famiglia e, se arriva ad avere un ragazzo, salvo rarissime eccezioni, lo tiene molto lontano dall'ambiente familiare. Se un ragazzo gay non ha la possibilità di realizzarsi nel suo ambiente familiare e sociale, tende inevitabilmente a realizzarsi attraverso altre strade. E qui la strada più facile è anche la più pericolosa. Parlo dei siti di incontri e delle chat erotiche. L'enorme numero di utenti delle chat erotiche e dei siti di incontri dovrebbe fare riflettere. Questi siti sono una risposta, spesso l'unica risposta, anche se disfunzionale, a delle reali esigenze di tipo affettivo e sessuale che non possono essere né ignorate né represse. Se per un ragazzo diventa impossibile vivere una vita affettiva e sessuale normale alla luce del sole, con la consapevolezza e l'accettazione della famiglia e della società, è inevitabile che quel ragazzo cerchi altrove la realizzazione delle sue aspettative. che sono in fondo le normali aspettative di qualsiasi ragazzo, ma che appaiono devianti e patologiche perché sono riferiti a un altro ragazzo anziché a una ragazza. Tentare di frenare o di reprimere un'esigenza concreta e impedire che si sviluppi secondo i canali normali significa automaticamente favorire la creazione di canali alternativi attraverso i quali quell'esigenza possa comunque trovare risposta. Accade un po' come per il proibizionismo: vietare l'uso dell'alcol nei comuni luoghi di vendita e di consumo significa incrementare altri canali di diffusione. Fermiamoci a considerare i siti di incontri. I siti di incontri sono nati per offrire agli utenti incontri di sesso facile. Questo vale per gli etero e vale ancora di più per i gay. Se nella realtà quotidiana è pressoché impossibile trovare un ragazzo gay, o meglio ancora sceglierlo e poi trovarlo anche sessualmente disponibile senza alcuna complicazione, il sito di incontri ti risolve il problema. Puoi vedere i profili dei ragazzi, le foto più o meno esplicite che hanno inserito, puoi caricare nel sito le tue foto e soprattutto hai la pratica certezza di trovare risposte numerose e rapide tra le quali scegliere il tuo partner ideale. Un ragazzo gay è indotto a credere che tutto quello che non è possibile nella vita quotidiana diventi invece magicamente possibile attraverso il sito di incontri. In pratica, il sito di incontri è visto come lo strumento unico ed insostituibile non per la realizzazione di un banale contatto sessuale tipo mordi e fuggi, ma proprio della vita affettiva in quanto tale. Il sito si presenta come la risposta ad un'esigenza affettiva profonda che non trova altrove alcuna risposta ed è caricato quindi proprio per questa ragione di attese affettive fondamentali. I siti incontri stanno diventando col passare del tempo una componente accettata come normale nella vita di un gay e questo è dovuto proprio al rifiuto sociale dell'omosessualità, cioè al proibizionismo gay che favorisce la creazione di canali alternativi per vivere comunque la propria vita affettiva e sessuale. Prima di registrarsi su un sito di incontri, un ragazzo vive momenti di incertezza e di oscillazione tra tentazione da un lato e ridimensionamento razionale delle aspettative dall'altro. Di fronte a persone che manifestano forti perplessità rispetto all'uso di questi siti, le risposte classiche sono: ma tu sei prevenuto? Oppure conosco tanti ragazzi come si deve che si sono registrati? Oppure ancora: ma non sono mica tutti maniaci sessuali? Oppure: io lo dico così, ma mica mi sono registrato e non penso che lo farò. Beh, in genere una frase di questo tipo precede di poco la registrazione. Quando un ragazzo entra in un sito di incontri, in genere resta impressionato molto favorevolmente dal fatto di trovare nel sito tantissimi ragazzi, molti dei quali anche della propria zona e quindi realmente contattabili. Pubblicare le proprie foto su un sito di incontri, tanto più se si tratta di un sito gay, comporta un certo rischio di essere etichettati. Ma questo rischio viene facilmente messo da parte per effetto di una pulsione narcisistica. In genere i ragazzi gay, anche quelli oggettivamente molto belli, sono convinti di non avere trovato un compagno per il fatto di non essere fisicamente all'altezza della situazione. E il sito di incontri offre a questi ragazzi una risposta. Alla pubblicazione della loro foto segue una pioggia di contatti. La dimensione narcisistica viene opportunamente gratificata e se ne trova eco in frasi come: se sono così numerosi i ragazzi che mi cercano, vuol dire che non sono affatto brutto. In genere, quando un ragazzo riceve molti contatti su un sito di incontri, è portato a considerarli come considera una richiesta affettiva ricevuta nella vita ordinaria. L'alto numero di contatti ricevuti fa trascurare il fatto che i ragazzi che ci hanno lasciato il loro contatto hanno fatto esattamente lo stesso con molti altri ragazzi. E si tratta di richieste di scambi sessuali disimpegnati nei quali si arriva al sesso molto facilmente. Il rischio più grave dei siti di incontri è il rischio del contagio HIV, cioè il rischio di essere contagiati dal virus dell'AIDS. Ma esistono rischi di contagio per via sessuale per molte gravi malattie come l'epatite virale e malattie prodotte dall'herpes virus o dal papilloma virus. La promiscuità sessuale è la prima variabile di rischio nelle malattie sessualmente trasmesse. È incredibile come ragazzi che hanno da altri punti di vista una razionalità altamente efficiente finiscano per mettere del tutto da parte quella razionalità, arrivando a parlare di accettazione del rischio o a sottovalutare il rischio sulla base del presupposto che il preservativo rappresenti una garanzia sufficiente. Spesso, anzi, il livello di superficialità è tale che ci si accontenta addirittura di generiche dichiarazioni dell'altro in relazione al suo stato di salute. Mi ha detto che sta benissimo e che fa il test ogni 6 mesi. Osservo per inciso che un ragazzo che frequenta siti di incontri e fa il test ogni 6 mesi ha con ogni probabilità la fondata preoccupazione di essere sieropositivo. A seguito della diminuzione delle campagne anti-AIDS è diventata ancora più comune la sottovalutazione dell'AIDS in sé e la convinzione del tutto errata che adesso sia una malattia che si supera con adeguate cure. Dopo i primi incontri sessuali, i ragazzi cominciano a notare che i loro primi partner spariscono e che non si crea un rapporto affettivo. Tutto questo è talvolta vissuto come un fare esperienze, nell'attesa che arrivi finalmente il ragazzo col quale si potrà costruire una storia seria. Altre volte invece, molto più frequentemente, come una realtà inevitabile che dimostra, o anzi sottolinea, l'impossibilità per un gay di costruire rapporti seri di coppia. Con il passare del tempo, la sensazione che si tratti solo di un gioco sessuale che distrae da impegni necessari come quello dello studio e del lavoro finisce per prevalere, ma si innesca un meccanismo di dipendenza del tutto analogo a quello che si crea nella dipendenza dagli stupefacenti. Si alternano cioè fasi in cui si fanno propositi di cancellare la registrazione dal sito di incontri e di eliminare tutti i contatti delle persone conosciute in quell'ambiente e fasi in cui la risposta depressiva al senso di vuoto conseguente all'abbandono del sito subentra rapidamente e induce al ritorno nel sito e alla ricerca di nuovi contatti. In genere la dipendenza può dirsi già instaurata quando l'intenzione di abbandonare il sito non è seguita immediatamente dall'effettiva cancellazione dell'account e dei contatti, che restano quindi come una vera e propria ancora di salvezza. Quando la dipendenza si consolida negli anni, si finisce per accettarla come inevitabile e per dare per scontato che doveva andare così. In realtà, questi ragazzi, ormai uomini adulti, sono stati privati della loro affettività e l'hanno buttata via per cercare una soluzione semplice ai loro problemi. In questo modo, l'omosessualità, che di per sé è un modo di amare, viene degradata all'esercizio di una sessualità senza affettività e porta inevitabilmente a sensi di profonda frustrazione, che non dipendono dall'essere gay, perché di gay che si realizzano ce ne sono tanti, ma dall'avere trascorso anni e anni in una forma di vera dipendenza. La droga non dà la felicità, ma la momentanea illusione di essere felici al costo di diventare dipendenti. Nello stesso modo, i siti di incontri non realizzano e non possono realizzare i sogni d'amore di un ragazzo gay, perché sono stati creati per un altro fine e portano anch'essi a forme di dipendenza. La responsabilità di tutto questo è dei ragazzi che cercano una possibilità di essere se stessi in un mondo ostile? Oppure è di quanti approfittano dell'ingenuità e dei problemi altrui per ottenere un utile economico gestendo siti di incontri? Oppure ancora è di coloro che rendono tutto questo possibile, alimentando l'omofobia e l'emarginazione dei ragazzi gay e favorendo di fatto, col loro moralismo discriminatorio, la crescita dei siti di incontri e l'espansione delle malattie sessualmente trasmesse, che è inevitabilmente correlata a questi nuovi usi sociali? Beh, date voi una risposta. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto.